Vita di Santa Nazaria di Santa Teresa di Gesù. Santa Nazaria nacque il 10 gennaio 1889 a Madrid. Il papà si chiamava José Marc Reus ed era un commerciante, quindi abbastanza benestante, era però ateo, mentre la mamma della nostra santa era cattolica ma non era praticante. Questa donna diede alla luce ben 18 figli, di cui solo 10 sopravvissero. Nel frattempo Ignazia, la nostra Nazaria Ignazia, crescendo, fu aiutata nel suo cammino spirituale soprattutto dagli esempi della nonna materna, una donna di grande preghiera, di pietà, che la fece entrare, quando era più grandicella, anche nelle scuole della città di Siviglia, dove lei abitava, con una borsa di studio nel collegio delle nobili fanciulle, diretto allora dalle suore agostiniane dello Spirito Santo. Ed era un collegio benedetto, perché da qui praticamente, pur se giovinetta, partì il suo cammino, un cammino di santità. Infatti le suore la prepararono, queste religiose la prepararono molto bene, insieme agli altri bambini, e le fece con devozione la sua prima comunione. Ebbene, proprio il giorno della sua prima comunione successe qualcosa di particolare. Gesù le rapì veramente il cuore. Quel giorno, infatti, la nostra Nazaria, ci ricorda, visse dolcezze incredibili nel suo animo, profonde a tal punto che qualche anno dopo, comprendendo, diciamo, e volendo essere totalmente del Signore, emise il voto perpetuo di verginità in segreto. E il Signore gradì la sua offerta. La notte precedente a questa decisione aveva pregato a lungo, inginocchiata sul letto, quindi non era, anche se era, diciamo, una ragazzina, non era una cosa superficiale, era stata pensata, aveva pregato per questa cosa. E quando quella notte si addormentò, vide in sogno Gesù che, carico della croce, fissandola, gli disse: Nazaria, tu seguimi. Lei rispose più volte: sì, voglio seguirti da più vicino possibile. Dopo questa bellissima esperienza tornò ancora in famiglia. Era ragazzina, aveva 12 anni, ma soffrì ancora di più per l'indifferenza dei familiari, i quali, addirittura vedendola così devota, così ardente di amore per Gesù, anche nella preghiera, no, che lei ogni giorno, diciamo, praticava, irritati addirittura da quell'atteggiamento di questa loro figlia, giunsero al punto di proibirle la frequenza ai sacramenti. Loro avrebbero voluto tutt'altro, che fosse entrata in società, che avesse trovato uno sposo benestante, che avesse avuto una vita completamente diversa. Questa vita per loro era una vita che non valeva la pena di essere vissuta, questo desiderio di amare il Signore. Nazaria, pur nella sofferenza, offriva tutto a Gesù. Era in silenzio, dispiaciuta per l'atteggiamento dei genitori che non la capivano, comunque per cercare di renderli più sereni, per un certo tempo accettò anche il corteggiamento di un giovane. Molti anni dopo, a questo proposito, scriverà: «Mi sentii amata, tuttavia è gioco forza lasciare l'uomo quando una persona si è sentita amata da Dio, il Signore trafigge il cuore, come in effetti è». Intanto, l'anno dopo, a 13 anni, sempre a Siviglia, ricevette la Santa Cresima. Questo sacramento le diede la forza, le dice la decisione, di tornare in modo definitivo ai suoi propositi iniziali. Quindi, con il permesso della nonna, si iscrisse al Terzo Ordine Francescano. Sempre per intercessione della nonna, i genitori gli concessero anche una maggior libertà, ed ella ne approfittò sia per darsi un regolamento di vita, anche fare penitenze per offrirle a Gesù, e anche per fare un intenso apostolato, questo non mancò, tra i familiari. Familiari che erano induriti in questo loro, diciamo, percorso di ateismo, insomma, a forza di preghiere, a forza di esempi dati da lei, da questa ragazzina, li portò tutti a frequentare la Chiesa. Insomma, il Signore le fece questa grande grazia. Nel frattempo, l'anno dopo, siamo verso la fine del 1904, fallì la compagnia di navigazione a vapore di cui faceva parte il padre, era uno dei soci, e fu una tragedia, perché naturalmente i danni erano moltissimi. E questo, diciamo, il papà, per dare inizio ad altre attività, decise allora di recarsi in Messico. Nazaria, con 3 sorelle, si trasferì nel frattempo in casa della nonna, dedicandosi con grande gioia a preparare i bambini alla prima comunione, ma questo tempo durò poco, perché in seguito anche lei con tutta la famiglia dovette trasferirsi a Città del Messico. E proprio in questo lungo viaggio tra la Spagna e il Messico, il Signore la attendeva per farle prendere conoscenze, per farle conoscere un esempio meraviglioso. Sulla nave conobbe Nazaria due piccole suore dell'Istituto degli Anziani Abbandonati, era una congregazione anch'essa spagnola, e queste due suore la colpirono per la loro carità enorme, anche per la loro semplicità, insomma, conquistata dal loro esempio, anche il suo desiderio di consacrarsi in quei giorni divenne ancora più forte. Arrivata a Città del Messico, la prima cosa che fece fu andare ai piedi della Vergine di Guadalupe. Così, il 7 dicembre del 1908, possiamo dire, per dar corso a questo fuoco ardente d'amore per Gesù, e soprattutto comprendeva ormai la grandezza delle anime a cui Gesù anelava, chiese e ottenne di essere ammessa, allora aveva 19 anni, nell'ospizio diretto proprio dalle piccole sorelle degli anziani abbandonati. La accolsero molto volentieri e dopo il postulandato fatto in obbedienza e umiltà, Santa Nazaria fu inviata a fare poi il noviziato a Palencia, in Spagna. Qualche tempo dopo era il giorno meraviglioso perché era il nome di Maria, il 12 settembre del 1909, con l'abito religioso, lei aveva 20 anni, assunse il nome di Suor Nazaria di Santa Teresa di Gesù. E tra le 83 novizie si distinse proprio per la fedeltà alla vita comune, la laboriosità, l'amore al sacrificio. Quando poi le superiore chiesero delle volontarie per la fondazione di una casa Oruro, era addirittura in Bolivia, si dimostrò subito disposta a partire. Fece la professione temporanea nell'ottobre del 1911 e all'inizio dell'anno dopo stese anche un minuzioso regolamento di vita. Propose riguardo i compiti domestici che avrebbe assolto in Bolivia. Indosserò con sollecitudine il grembiule, scrisse, riflettendo con viva fede sulle verità che nei poveri anziani servo il Signore, mi disporrò fervidamente a non lasciarmi vincere da nessuna consorella nella pratica delle più umili e ripugnanti faccende. Quindi tutto a tutti in questo caso, per amore di Gesù. Il fulcro però, e questo lo vedremo anche più avanti, il fulcro della sua vita, cari amici, sarà costituito soprattutto da un elemento fondamentale, cioè dalla volontà di pregare, di intercedere, offrendosi, poi vedremo come ostia, per la Chiesa, non solo per la Chiesa, per la perseveranza dei religiosi e per lo spirito missionario dei sacerdoti. Ma andiamo per ordine, giunse intanto proprio a Oruro, in Bolivia, era una cittadina è ancora tuttora una cittadina di circa 45.000 persone e qui giunse con altre 9 consorelle. Era un centro minerario, questo posto nel nord della Bolivia, ma travagliato da lotte sociali e politiche. E lei, pensate, poi lo vedremo, suora piccola di statura, minuta, no? Questa era fisicamente lei, ma con una grande forza spirituale, un coraggio incredibile, proprio all'inizio del XX secolo, scese in strada, portò la parola di Dio nelle miniere, nelle fattorie degli indios, nelle carceri, nei mercati, sostenne soprattutto le lotte delle operaie, delle donne, lavorò per la loro promozione, per la loro dignità. La donna contava meno di niente allora, anche in quei paesi. E qui, questa cittadina, Oruro, era il luogo dove andavano i poveri per cercare di uscire proprio dalla fame vera. Il paese spiritualmente non era freddo, non era evangelizzato, perché? Perché non c'erano preti, voi pensate, non c'era, quindi praticamente molto era affidato o a qualche laico, ma soprattutto alle religiose in questo caso, ma erano poche, perché come donne non erano, diciamo, ben viste, no? Non potevano neanche, diciamo, fare delle catechesi, non era permesso loro. Lei invece, giovane suora, non si limitò alle parole, cari amici, né si limitò ai buoni propositi, ma andò all'azione. sentiva nel cuore questa veemenza, questo desiderio, e Gesù le invitava ad andare verso i fratelli. Organizzò la gente perché rivendicasse i propri diritti, erano schiavizzati praticamente, erano i padroni e usufruivano delle persone come delle cose. Il suo motto, cari amici, era questo: voglio risollevare il popolo dalla sua prostrazione, sia fisica che morale. Dove c'era fame, lei apriva le mense. Dove c'erano orfani e donne sradicate a causa della fame, oppure della guerra del Chaco. La guerra del Chaco era un'area della Bolivia in cui la Bolivia era in guerra con il Paraguay per i giacimenti minerari praticamente, quindi c'era molta gente povera che scappava, e la qui organizzava case di accoglienza, oppure piccole scuole, perché anche imparassero a leggere, soprattutto le donne, e a derivare la loro dignità. Niente, nulla poteva fermarla. Ed erano veramente i poveri a decidere le cose, le opere di quella che di lì a poco, cari amici, sarebbe diventata una congregazione. Inizialmente sarà chiamata la Crociata Pontificia, cioè questo istituto religioso scaturito dalla sua opera, che oggi è presente in diversi paesi nei quattro continenti. Ma andiamo per ordine. Ritorniamo a Oruro. Appena arrivata, le suore erano presenti, dicevamo, nell'ospizio degli anziani, e anche qui lei svolse con diligenza, secondo le necessità, diversi compiti: l'economa, l'infermiera, la portinaia, la cuoca, persino la questuante, dicevamo. Non tutti le erano chiaramente graditi. Nel suo diario lasciò scritto però: come dolce soffrire per l'amato senza che nessuno lo sappia, senza che si disponga di un petto umano su cui reclinare il nostro capo dolorante, se non quello del divino eucaristico Gesù. Lei e questa piccola grande apostola sentiva nel cuore un grande desiderio di uniformarsi a Gesù, di perfezione, non sapendo però come realizzarli, perché i sacerdoti erano praticamente poco niente, poco nulla nel senso come numero, no? Non c'erano, non aveva un direttore spirituale. Allora cosa fece? Chiede, nella solennità del Corpus Domini, siamo nel 1914, aveva 24 anni, chiese a Gesù, scrive, di essere ammessa alla sua celestiale scuola. E qualche mese dopo, proprio nella solennità del Sacro Cuore, il Signore le fece comprendere che doveva fare di tutto per vincere se stessa, umiliare il proprio giudizio e, scrive lei, lasciarsi spremere come l'uva nel torchio. E il suo sì a Gesù, cari amici, fu totale. Ma molto presto, proprio perché fu totale, iniziò anche la dolorosa purificazione, come l'oro nel crogiolo, no? Sappiamo, della nostra santa, la famosa notte oscura che ripulisce e ti avvia su un cammino vero di santità, di uniformità a Gesù, scrisse lei nel suo diario. In quei giorni mi sentii sottomessa a prove che non avevo mai immaginato. Per esempio, praticava con molta difficoltà delle virtù, per esempio la virtù dell'obbedienza oppure della carità, che aveva amato moltissimo. Questo a causa dell'antipatia che in quei giorni, in quel periodo, provava, un'antipatia, un'avversione che provava verso le superiori, non le sopportava, ma era veramente una prova. E qui, tra spaventosi dubbi, e qui si faceva davvero tante domande, terribili tentazioni, pregava con Gesù in croce: Padre mio, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Ma lei continuava, si disponeva, accoglieva il sacrificio con cui avrebbe potuto presentare al Signore un grande numero di anime. E il 6 ottobre del 1914 nel suo diario annotò che amava moltissimo la Madonna, e per questo le scrisse: che fortuna poter imitare Maria, essere vergine ed essere madre, madre di anime, lei con la sua maternità divina, io con la mia maternità spirituale. E intanto nel suo cammino fece anche la professione perpetua. Il 1 gennaio 1915 aveva 26 anni. La notte prima era stata orribilmente tentata anche di ribellarsi a questa sua offerta. L'offerta, lo ricordo, era per la Chiesa, per i sacerdoti, ma teneva sempre nel cuore e nella mente che proprio nella Basilica di Guadalupe, ai piedi della Madre del Signore, aveva chiesto di poter seguire Gesù, le sue orme insanguinate. E così dal 1918 al 24, mentre faceva la questua nell'andare a chiedere elemosine per gli anziani abbandonati, sentì ancor più forte in lei quella che era un desiderio grande di vita missionaria, di evangelizzazione, la vita apostolica nel senso più pieno del termine. Essendo allora, soprattutto in quei popoli, molto diffusa l'ignoranza religiosa e anche l'analfabetismo tra il popolo, cominciò lei, che non poteva, a fare scuola di catechismo e ad organizzare un'associazione di giovani per l'apostolato. Poco dopo però fu costretta ad abbandonare con dispiacere questa evangelizzazione perché non era conforme al carisma della sua congregazione, quindi le superiori gliel'avevano vietato. Nel frattempo guardava però con preoccupazione, anche dispiacere, la scarsezza di sacerdoti, chi avrebbe evangelizzato, e purtroppo anche la condotta di alcuni di loro, che con grande dolore vedeva non priva di scandali. Ripeteva allora: «Tutto il mio essere posto sulla patena perché sia trasformato in ostia per la Chiesa e per Gesù». E proprio grazie a questo suo fecondo cammino, a questa sua anche dolcezza, a questa sua carità, aveva conquistato nel frattempo molti cuori in questa cittadina, Oruro, ed era ormai conosciutissima. Fu lei che prese per esempio l'iniziativa di far trasferire in un nuovo locale proprio l'ospizio degli anziani e grazie alla sua abilità, per mezzo del nunzio in Bolivia, ottenne che i Clarettiani, cioè la congregazione fondata da Sant'Antonio Maria Claret, alcuni di loro erano presenti in quella zona, si prendessero cura della chiesa madre della città. E per preservare la fede tra il popolo era soprattutto però indispensabile intensificare l'istruzione religiosa, ma si chiedeva come fare se due delle quattro diocesi che erano state erette nel paese erano vacanti e i sacerdoti, dicevamo, erano davvero pochissimi. Qui dobbiamo dire che il nunzio, allora era sia nunzio della Bolivia che dell'Argentina, Monsignor Cortesi, già dal 1921 sognava la fondazione di un istituto di suore che proprio con la catechesi aiutassero la Chiesa ad insegnare, evangelizzare, a ricristianizzare quelle terre. E quando Monsignor Cortesi si recò a Oruro per benedire la prima pietra dell'ospizio degli anziani, incontrò casualmente, diciamo casualmente tra virgolette, Suor Nazaria e poté rendersi conto di quali sentimenti lei fosse animata. Quindi si concluse questa conoscenza in quel giorno tra Monsignor Cortesi e la nostra santa e finì lì. Però a Monsignor Cortesi restò in mente questa persona perché lo colpì questa luce particolare che aveva negli occhi questa giovane, ma poi non ci pensò più. 3 anni dopo, pensate, era il 22 giugno del 1924, la rivide, la rincontrò proprio a La Paz, e praticamente la capitale della sede del governo in Bolivia, e la trovò in qualità, allora la nostra santa era diventata segretaria proprio dell'ospizio degli anziani ed era assieme alla sua superiora. Fu allora che, imponendole le mani, l'autorizzò a preparare i bambini nell'ottava di Pentecoste, comprese di che stoffa era fatta. Successe però che alcuni mesi dopo, proprio nel mese di agosto, Santa Nazaria cadde gravemente ammalata con febbre altissima. Anche questa era una cosa che non si capiva, ma era una tra le tante prove che il Signore, diciamo, le chiedeva in questo caso. Ma lei, pur dolorante, non si fermò e continuò. E quasi a conferma di questo suo procedere su questo cammino di evangelizzazione, quello stesso giorno in cui stava particolarmente male, Monsignor Cortesi andò a trovarla, ricevette da lui proprio un'immaginetta della Vergine attorniata da tante pecorelle. Era un po' diciamo, il preambolo di quello che sarebbe poi successo più avanti, con la sua fondazione. Intanto, l'11 novembre dello stesso anno furono erette 3 nuove diocesi in Bolivia e proprio un altro padre calerettiano, padre Abele Isidoro Antezana, che ebbe, come vedremo, un ruolo fondamentale nella vita di Santa Nazaria, volle fare in quei giorni anch'esso una visita all'ospizio degli anziani. La nostra santa, che pochi giorni prima aveva fatto uno speciale voto di obbedienza al Papa, in una lunga conversazione gli aprì il cuore, quindi gli raccontò tra i singhiozzi ciò che avveniva nella sua anima dal 1919. Lei non aveva ancora, certo si confessava ovviamente, ma non aveva un direttore spirituale. Monsignor Antezana le consigliò di parlarne con il nunzio, quindi con Monsignor Cortesi, e lei si recò alla Paz, la residenza del nunzio, confidandogli il suo desiderio di missionarietà, quindi di evangelizzazione, no? Il disegno che aveva di iniziare una crociata pontificia per coinvolgere tanti sacerdoti, far arrivare sempre a fianco del Papa, insieme ai Vescovi, evangelizzare tutti quei territori. Monsignor Cortesi, che dicevamo aveva capito di che stoffa era fatta, anche della santità che vedeva in questa ragazza, le disse: «Preghi molto e mi dica per scritto quello che il Signore l'ispira a riguardo». Quindi c'era già una grande stima. Lo stesso Monsignor Cortesi, il mese dopo, era il 25 marzo, consacrò nella cattedrale di La Paz 5 nuovi vescovi. Suor Nazaria, presente alla cerimonia, assistette in profonda contemplazione, in unione a Gesù. Nel suo diario scrisse: «Si avvicina senza dubbio il momento di mangiare dello stesso pane, di bere lo stesso calice, di unirmi ad essi», cioè all'evangelizzazione dei vescovi. E infatti, l'8 di agosto di quell'anno, ricevette la bella notizia che i suoi propositi, il suo desiderio di evangelizzazione, di missionarietà, erano stati approvati sia da Monsignor Cortesi che dal Vescovo di Oruro, ma anche dal nuovo Vescovo di La Paz, che era Monsignor Antezana adesso, e poi dal suo nuovo direttore spirituale, il padre Luigi Capitaine, un gesuita. Qui, pochi giorni dopo, il nunzio la mandò a chiamare e le disse: «È giunta l'ora di Dio e lei dovrà mettersi alla testa di questo nuovo istituto, la Crociata Pontificia. La strada, le disse Monsignor Cortesi, è terribile, dolorosa all'estremo, e poi capiremo perché. E lei dovrà percorrerla sola, sola. Tuttavia si faccia animo perché lavorerà per la Chiesa, per la gloria di Dio e per le anime». E nel suo diario le scrisse: «Mi sono sentita con la fortezza e la fede dei martiri. Uscii dall'annunziatura quel giorno disposta a dare il mio sangue, la mia vita, per issare la bandiera pontificia e formare un reggimento di anime apostoliche che lottino per la Santa Chiesa a fianco del Papa e dei suoi vescovi». E iniziò proprio questo cammino non facile proprio con Monsignor Antezana, che il 16 giugno del 1925, per iniziare, le affidò il compito di riformare il Beaterio delle Nazarene, cioè era un vecchio palazzone in cui c'era tempo prima un'associazione. Si chiamava proprio il Beaterio delle Nazarene, proprio nel Beaterio oggi ci sono le sue reliquie. Comunque, lo stesso giorno, la nostra santa uscì dall'ordine delle piccole suore e avviò quindi la sua opera. A lei, con l'aiuto dei padri calerettiani, si unirono anche nuove compagne che l'aiutarono proprio nell'apertura di un orfanotrofio, e di orfani ce n'erano davvero tanti, che erano sulla strada, abbandonati a se stessi. Non le mancarono purtroppo critiche, ma questa è la via dei santi, critiche, incomprensioni, anche calunnie, e questo da parte di persone, ma anche le incomprensioni furono molte da parte dei superiori, anche di laici, perché aveva lasciato la sua precedente congregazione, ma aveva lasciata perché il Signore, anche tramite il nunzio, aveva chiaramente fatto capire che le doveva iniziare una nuova fondazione. Ma lei non si scoraggiò mai, con una fede, dicevamo, grande, una fiducia che non conosceva confini, rimase sempre fedele a quello che era la sua missione, il suo compito, e scrisse così: «Voglio morire senza lustro né gloria», e non ne aveva di sicuro, «Voglio morire senza lustro né gloria nella difesa degli interessi di Cristo. Non ambisco altra gloria che quella dell'occultamento e dell'umiliazione. desidero soltanto di essere quello che Gesù vuole, un'anima che muore per i suoi interessi senza che nessuno lo sappia, anzi davanti alla quale tutti sorridono al vederne l'insuccesso. Nel frattempo, proprio in quel periodo, viene nominato un altro nunzio in Bolivia, e che è Monsignor Gaetano Cicognani, mentre Monsignor Cortesi va, come vedremo, in Argentina. Monsignor Cicognani, arrivano a Monsignor Cicognani appena nominato bordate incredibili, negative sulla nostra santa, dicendole che non era capace, che avrebbe fatto un errore a dare la possibilità di sostenerla, che sarebbe stato un grave errore anche per la Chiesa questa cosa, e quindi era assolutamente da chiudere questa esperienza che lei aveva in mente, che la nostra Santa aveva in mente. Ma Monsignor Cicognani, al contrario, la sostenne, e anche in modo solido, di spessore. Oltretutto questa congregazione, lei poi naturalmente ne aveva parlato, il Signore gliel'aveva ispirata, pensate, due volte, ma la seconda, pensate, in modo distinto, mentre lei faceva la meditazione sugli esercizi di Sant'Ignazio, parliamo addirittura del 1920, e la troviamo questa cosa nel suo diario. Santa Nazaria scrisse: «Ricordo quel giorno di aver visto, in una visione, una moltitudine di anime che mi seguiva. Il gran campo di cui parla Sant'Ignazio apparve davanti ai miei occhi, e il divin capitano, cioè Gesù, attrasse il mio sguardo, corsi verso di lui, e con lui rimasi ad amarlo e servirlo per sempre». E quindi lei, proprio con l'appoggio di Monsignor Cicognani, parte, e anche Monsignor Antezana, che era il nuovo arcivescovo di La Paz, il 3 dicembre del 1926, cosa fece? Eresse l'istituto delle sorelle missionarie della Crociata Pontificia, la eresse in congregazione di diritto diocesano, e, lo ricordo, questo istituto sorse proprio per catechizzare, per evangelizzare tutti, ma per catechizzare i bambini, gli adulti, anche con le missioni e anche con la stampa di fogli religiosi, no? Per cercare di, lei aveva anche creato delle scuole, non con delle maestre, cioè ci faceva aiutare anche delle consorelle per cercare di insegnare a leggere almeno le cose più semplici, no? Allora c'erano anche i fogli religiosi che venivano stampati, o con le preghiere, soprattutto con i disegni, no? Per far capire questa cosa. E lei, Santa Nazaria, indossò anche la nuova divisa con le prime sei novizie, erano sei le prime, e fece la professione perpetua. Era in paradiso quel giorno, era un momento bellissimo, nonostante tutte le prove che stava ancora subendo e attraversando in quel momento. E l'istituto, cari amici, vero braccio destro dei parroci, in Bolivia si diffuse molto rapidamente e cominciò ad essere molto stimato, perché ci si rendeva conto della grandezza e dell'importanza. A questo proposito, lei scrisse nel suo diario: continuo ad, perché non si era, no, ovviamente non si era montata la testa, al contrario, dice, continuo ad essere portata. Gesù sa quanto sono debole e come, se lasciata sola, non farei che inciampare e guastare la delicatissima opera che ha posto nelle mie mani. L'opera è sua, io sono qui semplicemente come il sipario dietro il quale egli lavora. E qui Monsignor Cortesi, dice Vadmo, nominato nunzio in Argentina, non si dimenticò di Madre Nazaria. Infatti volle che aprisse una casa delle sue missionarie anche a Buenos Aires, questo sei mesi prima che lei fosse proclamata all'unanimità, era il 6 gennaio del 1930, superiora generale. Questo era il primo capitolo di questa nuova congregazione. Ma per portare a termine la sua opera, la maggior gloria di Dio, Nazaria dovette affrontare altre prove, una più dolorosa delle altre. Le sue prime consorelle, infatti, cioè della precedente congregazione, non bastavano le prime critiche, poi la considerarono successivamente, la trattarono, quando videro che l'opera era nata, come un infedele alla propria vocazione. Questa la ferì profondamente, perché comunque amava le sue precedenti consorelle. Poi altri padri claretiani attribuirono la fondazione dell'istituto non a lei, ma a Monsignor Antezzana, il loro confratello, ma non era così, ma questo vabbè. Ma la cosa che più la colpì e la ferì fu che Rebecca Morales, prima sua compagna agli inizi proprio del cammino, nel 1932 non fu ammessa alla professione perpetua perché considerata una ribella all'autorità. Questa la fece soffrire in modo devastante perché era molto legata a lei e non avrebbe potuto, diciamo, averne l'aiuto, su cui contava tantissimo, ma anche per l'amicizia, no? Per l'amore che c'era verso questa amica. Ma lei tutto sopportò anche con profondo dolore, con profonda tristezza, senza lamentarsi. Scrisse in quel tempo al suo padre spirituale, il padre Capitaine: «Il Signore mi tratta come sua sposa e sono felice, sono tranquilla, contenta di consumare le pose del calice che in realtà per me costituiscono una deliziosa bevanda. Quanto è dolce il vivere soltanto per Dio, ricevendo dalle creature il disprezzo e la calunnia, e forza che spinge verso l'alto. Capiva bene che ogni prova che Gesù le donava e che lei ridonava a Gesù come offerta per amor suo, era per la salvezza di tante anime, soprattutto dei sacerdoti. Questa era la cosa che le stava più a cuore, i sacerdoti». Nel frattempo, per accelerare anche l'approvazione, anche a livello, diciamo, pontificio del suo istituto, all'inizio del 34, siamo nel 1934, andò a Roma con un pellegrinaggio. Allora ne approfittò per essere ricevuta in udienza privata da Papa Pio XI. Fu una grande emozione quando fu ai suoi piedi e gli disse che desiderava morire per la Chiesa se quello fosse stato necessario. E il Papa gli disse con dolcezza: non morire, ma vivere e lavorare per la Chiesa. E infatti il 29 maggio dell'anno dopo ricevette dalla Santa Sede il decreto di lode addirittura. Poi anni dopo, qui siamo già nel 1947, cioè con l'approvazione definitiva, lei era già in paradiso, le sue religiose avrebbero assunto il nome di missionarie crociate della Chiesa. Qui, visto che il suo istituto adesso cominciava ad andare in qualche paese oltre la Bolivia e oltre l'Argentina, lei l'anno dopo, siamo nel 1936, andò in Spagna. Lei arrivava dalla Spagna, ma ormai mancava dal suo paese da 22 anni, e andò a Madrid per fondarvi una casa per esercizi spirituali. Erano, cari amici, tempi bui per la Spagna quelli. E le suore che componevano allora la comunità a Madrid erano straniere, vivevano protette dalla bandiera uruguaiana. Perché questo permise loro, insieme alla fondatrice, di non essere arrestate o fucilate nei vari rastrellamenti, siamo nel mese di luglio del 36, durante la guerra civile spagnola. Anzi, con l'aiuto dell'ambasciatore boliviano, Madre Nazaria poté raggiungere con diverse suore anche la città di Viteria in Navarra, dove riorganizzò il noviziato e poi ripartire per l'America, ormai dall'America mancava da 2 anni. L'anno dopo convocò un capitolo straordinario generale per rafforzare, no, attorno a sé, per fare un po' il punto della situazione, rafforzare soprattutto l'unione di tutte le sue figlie spirituali. E poiché la sua salute cominciava a vacillare, purtroppo si era spesa totalmente, anche nella salute, cominciava a vacillare a causa sia della tisi, ma anche del mal di cuore, i medici gli consigliarono di cambiare paese, di cambiare aria, un'area più salubre. Comunque, nonostante le infermità, la nostra santa, non lesinò, Signore, alcun sacrificio e nessun lavoro richiesto da quella che era la sua carica. Continuò con una bontà incredibile, amorevole, con una dolcezza grande, benché, pensate, fosse di temperamento impulsivo, era un peperino, questa nostra santa, a formare le suore all'osservanza delle regole, all'esercizio di tutte le virtù, però prima con l'esempio, poi con l'esortazione, poi, dove non poteva arrivare, ormai erano in diversi paesi, con una grande, un'abbondante corrispondenza. E proprio le sue risorse per condurre ai pascoli eterni il suo gregge furono soprattutto il tabernacolo. Amava Gesù e si fermava le ore a pregare davanti al Santissimo Sacramento, era il suo amore. Poi la Santissima Vergine, devotissima alla Madonna, in ogni senso era totalmente affidata a lei, era proprio la mamma vera. E poi infine la pratica della bontà, di una bontà infinita, della sua dolcezza, dicevamo prima. E anche le superiori delle varie case, lei raccomandava sempre di essere madri, materne, non dure con le consorelle, con le figlie, e sempre diceva di precederle con il buon esempio, giacché diceva, non si può esigere quello che non si compie. Preoccupata anche per le suore che aveva lasciato, dicevamo, in Spagna, a Madrid, vi tornò nuovamente per consolidare l'opera, per animare le religiose nell'esercizio della loro missionarità, dell'evangelizzazione, dell'apostolato, specialmente quello delle missioni nei sobborghi della capitale, cioè nelle periferie più povere di Madrid. Era sofferente e un giorno pregò, perché stava male, soffro molto, Signore, che non appaia in niente, voglio essere intatta nella verginità del dolore, quindi tutto donato a Gesù. E in occasione del terzo capitolo generale che si fece a Buenos Aires nel 1943, lei volle esservi nonostante la cattiva salute. Conscia di aver fatto quanto poteva per Gesù, era disposta anche a scomparire in qualsiasi momento e pregò così. Signore Dio mio, chiedo solo di essere la cenere dell'Olocausto che a tua gloria ho offerto a te e per mezzo di te alla tua Chiesa Santa. E qui, colpita da una gravissima polmonite, il 14 maggio Santa Nazaria fu ricoverata nell'ospedale di Rivadavia. Morì così, a 54 anni, il 6 luglio 1943, per emottisi, dopo aver molto pregato, offerto ancora una volta la sua vita per la Chiesa e raccomandato molte volte alle sue missionarie, state unite, lavorate unite, tutte insieme, tutte insieme. E fu seppellita nel cimitero di Chacorita. Dal 1972 le sue reliquie sono venerate a Oruro, proprio nella casa dell'antico Beaterio. Vorrei però darvi, cari amici, anche uno spaccato un po' più preciso, no? Riguardo proprio a quello che dice sul quadro di questa santa, proprio su quello che dice, sono due righe della postulatrice della causa di canonizzazione, che Suor Maria Jesus de Miguel, spagnola, anch'essa missionaria crociata, le racconta un episodio che fa capire la grandezza di questa apostola. Dice Suor Maria Jesus de Miguel, quando Madre Nazaria venne a Roma per chiedere l'autorizzazione a fondare la nuova famiglia religiosa, le fu detto, com'è possibile fare una richiesta di questo tipo senza possedere strutture come ospedali e scuole? Rispose che la sua casa erano la calles, cioè le strade, e che lì si svolgeva la sua missione, tra i poveri. Spiega infatti la religiosa. La sua ragione di vita furono i più poveri, che in quel tempo in Bolivia erano davvero tanti, e in particolare le donne. Era una donna semplice, ma animata da una grande fede e da un grande amore per la Chiesa e per i poveri. La sua parola preferita era mas, di più, perché voleva sempre dare qualcosa in più, aggiungere dell'altro alla sua generosità. così seppe ideare nuove risposte di fronte alla situazione di quel tempo. Come appunto la nuova congregazione, dice la postulatrice, ma anche come il primo sindacato operaio femminile, da lei avviato con una grande idea anticipatrice, sempre a Oruro. Si può davvero affermare, continua, che la sua vita santa fu anticipatrice dell'idea di Chiesa alla quale ci spinge Papa Francesco, quella cioè di una Chiesa in uscita, ospedale da campo, un'evangelizzazione che lei era, la sua cioè sulla strada, e spinse le sue consorelle a scendere in strada e incontrare la gente annunciando il Vangelo, creando mense per i poveri e case di accoglienza per gli orfani. Possiamo concludere, cari amici, dicendo che la santità di questa meravigliosa donna, di questa religiosa, sarà poi più tardi riconosciuta, e come poteva non esserlo, dalla Chiesa. Infatti San Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù nel settembre del 1988 e la beatificò lui proprio il 27 settembre del 1992. E come primo miracolo per la sua beatificazione fu preso in esame il caso di una signora ricoverata in gravissime condizioni presso un ospedale argentino, signora che recuperò improvvisamente la salute proprio quando stava per entrare in sala operatoria. Molti infatti avevano pregato proprio Madre Nazaria per lei, perché la guarisse. Ebbene, la consulta medica della Congregazione delle Cause dei Santi nell'ottobre del 91 si pronunciò favorevolmente circa l'inspiegabilità scientifica di questo fatto. Il secondo miracolo preso in esame per ottenere naturalmente la canonizzazione fu il caso di una suora missionaria crociata, quindi una figlia spirituale della nostra santa, Suor Maria Victoria Zuara. Questa suora il 13 ottobre del 2010 fu colpita da un'emorragia cerebrale gravissima che la privò dell'uso della parola ma anche della possibilità di ingerire alimenti. La situazione era davvero grave, molto preoccupante. Le altre consorelle si unirono in preghiera invocando fortissimamente con tutto il cuore la loro fondatrice. Ebbene, cari amici, nel giro di 12 giorni Suor Maria Victoria riprese tutte le sue normali funzioni vitali. Anche in questo caso la consulta medica della Congregazione delle Cause dei Santi riconobbe l'inspiegabilità scientifica di questa guarigione. E qui proprio Papa Francesco, dopo questo secondo miracolo, la canonizzò il 14 ottobre del 2018, istituendo la sua festa il giorno 6 luglio. Ma ancora oggi, quelle missionarie crociate della Chiesa, queste sue figlie, sono dedite all'attività missionaria che fanno in tutto il mondo, impegnate nelle evangelizzazioni delle comunità, soprattutto delle periferie delle città, con una pastorale chiara, meravigliosa e itinerante. Due a due vanno per le strade, dedite al catechismo, all'educazione anche dei ragazzi, dei giovani, al lavoro sociale, sono presenti nelle prigioni, negli ospedali, sono davvero ovunque, sono in Camerun, Francia, Portogallo, Spagna, insomma portano ovunque, cari amici, l'amore e la passione di Santa Nazaria che lei ha dato a tanti fratelli e loro lo hanno preso e lo stanno portando in questo momento in tutto il mondo ad ogni fratello che